così male, meno male l'hai già fatto tu. Cercavo case, ritornavo nella giungla, ma la giungla des tu. Io mi orientavo al buio tra le mie paure che non peso più. Avevo paura di essere niente, di essere giudicato sempre dalla gente. E avevo paura di sentire niente, di essere giudicato sempre dalla gente. Voglio tornare bambina per fermare il tempo. Oggi mi sento così. Voglio tornare. Santo.